Se solo tornasse. Ti piace fare l'italiano e fai a buffa all'ata. T'hanno ritto che siamo una nazione, che siamo fratelli, ma t'hanno lasciato in un bordello. Se solo tornasse a fare napoletano, rompisse il culo a tutto quanto con 24 giornate. Se solo tornasse a fare napoletano, tornasse a casa a respirare l'aria amara. Ma io continuo a fare l'emigrante. T'hanno ritto che c'è stata la democrazia, che fu civile, ma t'hanno lasciato a munnezza mezza via. A te ti piace fare l'italiano, se no sei brigante, con ma gente che capa 30 chill'anno. Ma non te ne incarica, continua a fare l'italiano, chiudi l'occhio, appare del orecchio e non parla. Continua a bella vita e pensa a mangiare. Un giorno che torna a fare napoletano e un giorno che ti arrepiglia la dignità. Se solo tornasse.